Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Radio Noise. Questa sera sarà una puntata un po' diversa, fatta di canzoni diverse, ovviamente. Ma sarà una puntata diversa perché si esploreranno dei generi, degli ambiti diversi, delle sonorità diverse, sonorità a cui Radio Noise ancora non vi aveva abituato nelle sue puntate, nelle sue trasmissioni. Quindi stasera esploreremo quella parte un po' più calda, staccheremo in un certo senso la spina, chiuderemo gli amplificatori, se così vogliamo dire, e daremo vita ai suoni più caldi, alle vibrazioni più intense e più delicate, però nello stesso tempo. State ascoltando in sottofondo i Team Sleep, gruppo, progetto parallelo di Cino Moreno, cantante di Deftones. E iniziamo con un primo brano, con un primo gruppo. Loro vengono dall'Inghilterra, dall'Oxfordshire per la precisione, e si chiamano Radiohead. Questa è Airbag. Radiohead con Airbag. E dicevo prima, è il primo brano tratto da OK Computer. E l'album, non soltanto il brano ma tutto l'album, rappresenta un momento di passaggio per i Radiohead, perché prima li vediamo alle prese con il rock, con il Britpop, perché inglesi, quindi influenzati diciamo da quello stile, da quel genere, anche se l'Inghilterra rappresenta soprattutto la patria del punk, però il punk è stato soltanto un momento abbastanza breve, almeno in Inghilterra, perché quello che poi funzionato di più è stato appunto il Britpop, influenzati anche dai Beatles, tutti i gruppi influenzati anche dai Beatles. Quindi OK Computer rappresenta un momento di passaggio in cui inizia a farsi sentire l'influenza dell'elettronica, e Radiohead sono molto influenzati dall'elettronica da questo album in poi. Quindi per capire meglio questo passaggio ulteriore, invece adesso ci andiamo ad ascoltare un altro brano che invece è tratto da un album successivo appunto, e il brano si chiama Idiotech, e loro sono sempre Radiohead e voi siete sempre in ascolto di Radio Noise. Thank you. Radiohead con Idiotech, tratto da Kid Day, album, come dicevo prima, di passaggio, in cui l'elettronica appunto si mischia e qui si può capire bene. E Idiotech, tra l'altro, è un esempio di canzone cosiddetta circolare, perché inizia con un riff, inizia con un brano, in questo caso inizia con un beat, con una base, e finisce con la stessa base. Tra l'altro, se avete notato, alla fine del brano c'è una sorta di batteria in reverse, quasi a voler dire, era che stiamo ritornando al punto di partenza, quindi stiamo ritornando in un certo senso indietro ma allo stesso momento avanti. Una cosa un po'... questo almeno è il pensiero e il trip mentale che si è fatto Radio Noise su questo pezzo. Siete in ascolto su Transizioni di Fase, www.transizionidifase.org, e questa sera, ripeto, è una serata dedicata alla musica cosiddetta tranquilla, alla musica calma, al relax. Stasera diamo sfogo ai sentimenti, ma diamo sfogo anche ai pensieri, diamo la possibilità al cervello di riposarsi, di rifiatare un attimo, di andare anche in stand by, di raccogliere tutti i pensieri incamerati durante la giornata e lasciarli andare via. E li lasciamo, continuiamo a lasciarli, a farli andare via con una delle voci più belle della musica, non solo della musica rock, della musica in generale. Lui è Jeff Buckley e questo è Last Goodbye. Can we overcome? Jeff Buckley, Last Goodbye. E dicevo prima, è una delle voci più belle, più potenti e anche allo stesso tempo più soavi della musica rock. Grazie a Grace, Jeff Buckley diventa famoso, arriva alle classifiche, inizia a girare seriamente per il mondo e a farsi apprezzare per la sua musica. Però purtroppo non è riuscito a darci quanto effettivamente avrebbe potuto darci, perché nel 1997 muore annegato nel Mississippi. Si dice che lui stava semplicemente andando a farsi un bagno e, tuffandosi, cantava il ritornello di Wall of the Love dei Led Zeppelin mentre si allontanava dallo sguardo del suo amico che l'aspettava sulla riva del fiume. Quindi si è allontanato nel buio cantando. Immagine che mi ha fatto venire i brividi, ovviamente, perché conoscendo e amando il personaggio e le sue canzoni, è chiaro che comporta questo un maggiore sentimento, quindi nei confronti del personaggio, conoscendo il modo in cui, diciamo, se n'è andato via. Io consiglio di guardare un live in Chicago del 1995, se la memoria non mi inganna, e lo consiglio perché in questo live si riesce ad apprezzare ancora di più e appieno il personaggio, perché Jeff Buckley non era comunque soltanto voce, oltre a essere un bravissimo chitarrista, non era soltanto voce, ma era anche teatralità. Quindi ci si rendeva conto vedendolo dal vivo dell'intensità con cui portava avanti il proprio brano, i propri scritti e i propri testi. Quindi consiglio vivamente di ascoltarlo, e consiglio anche di prendere il disco Mystery White Boy, che contiene una serie di live, i live più belli sono stati scelti in persona dalla madre in persona, e poi di andare a cercare, perché comunque se l'album ufficiale è Grace, però comunque questo non significa che di produzioni di Jeff Buckley non ce ne siano state, anzi ci sono una serie di live registrati anche di molte rarità. Quindi consiglio di spulciare un poco, di andare a vedere dove poter trovare tutto su Jeff Buckley. Ci ascoltiamo un altro brano, sempre dello stesso album, sempre di Grace, l'ultimo brano di Grace, ed è anche un brano molto emblematico perché riguarda una parte della personalità, se vogliamo dire, di Jeff Buckley. Siete sempre in onda e in ascolto, Radio Noise in onda su Transizione di Fase, passata la prima mezz'ora, quasi. Anzi, concludiamo la prima mezz'ora ascoltando un altro brano di Jeff Buckley, Dream Brother. Pictures go wild in a rush of wind. Jeff Buckley con Dream Brother, tratto da Grace. Come dicevo prima, una delle voci più belle si potrebbe inserire nella top 10 delle voci più belle della storia della musica, dalla nascita della musica fino ad oggi. E come dicevo prima, Dream Brother fa riferimento ad una caratteristica abbastanza particolare, diciamo così, di Jeff Buckley, perché si diceva fosse affetto dalla sindrome bipolare, e quindi questo Dream Brother è lui stesso, diciamo, nei sogni, nel sogno. E anche la scelta stilistica, la scelta della composizione, dei suoni, dà questa immagine onirica al brano, quindi rispecchia appieno il testo, il titolo del brano e tutto quello che ruota intorno a questa canzone. Quindi consiglio vivamente, ma veramente consiglio, di acquistare Grace, l'album Grace, e poi di avvicinarsi a tutto quello che ruotava intorno a Jeff Buckley. Come dicevo prima, è stata la prima mezz'ora di questa puntata, di questa settima puntata di Radio Noise, puntata di sperimentazione che vuole addentrarsi in altri ambiti, in ambiti un poco più oscuri, un poco più bui, diciamo, ma non in senso negativo, non inteso in senso negativo, perché Radio Noise fino adesso appunto vi aveva abituato ad altro. Ma questa è una fase di sperimentazione, come è stata la scorsa puntata in cui sono stati ospiti le Cose Perse, gruppo punk rock di Roma, e abbiamo sperimentato la fase live all'interno di Radio Noise. Devo dire, una puntata che è andata molto bene, sia come ascolti, sia come partecipazione, sia come alchimia che si è creata proprio all'interno della puntata, perché ovviamente voi riuscite a cogliere cose diverse rispetto a quelle che vengono colte durante la trasmissione da chi, da me che cerco e provo a fare lo speaker, e da chi è all'interno e ospite al programma. Passiamo a un altro gruppo che invece è stato sempre un gruppo devoto alla distorsione e ai riff graffianti, che però si è anche cimentato tante volte in altri ambiti, diciamo nell'acustico e nell'elettronica. Quindi ci ascoltiamo il primo brano acustico, in versione acustica. Loro sono i Deftones e questa è Change. I watched you change. Loro erano i Deftones con Change, versione acustica di Change, tratto dall'album White Pony, Change in the House of Files, detto il titolo per intero. Quindi, dicevo prima, i Deftones sono un gruppo che comunque ha sempre avuto suoni molto graffianti, molto forti. Sono nati a Sacramento nel 1988, quindi alla fine degli anni 80, e rappresentano uno di quei gruppi che fanno parte, che hanno fatto parte del filone new metal. Il nome Deftones rappresenta poi l'unione delle differenze che c'erano dal punto di vista musicale, che c'erano all'interno dei componenti della band, che erano dei ragazzi che comunque tutti in linea generale ascoltavano metal e hard rock. Però ad esempio Chi Cheng, il bassista, prediligeva molto Bob Marley, ma lo stesso Chino Moreno nella fase giovanile ascoltava i The Cure, Joy Division, Weezer. Quindi Deftones poi, tra l'altro, è l'unione di due termini: Death, che è un termine slang dell'hip hop, e Tones, che è un suffisso che veniva utilizzato nei gruppi negli anni 50. E questo ha per aumentare, quindi è stata un'idea di Stephen Carpenter, del chitarrista, per far capire appunto che anche il nome rappresentava l'unione di, diciamo, generi diversi, stili diversi. Tra l'altro Def è poi un omaggio che viene fatto alla casa discografica Def Jam Recordings. Tra l'altro di Chi Cheng abbiamo parlato, il bassista, abbiamo parlato qualche puntata fa, perché un anno fa Chi Cheng, a causa di un incidente stradale, è entrato in coma. Quindi c'è questo sito dedicato a Chi Cheng in cui ci sono le notizie sui miglioramenti e su ciò che succede di volta in volta, corredati anche in alcuni casi di foto che vedono i miglioramenti di Chi Cheng per quello che può significare in questa situazione miglioramento. È una situazione abbastanza delicata, non sicuramente bella. Change fa parte di White Pony, album di passaggio del 2000, guarda caso. Anche il Kid Day dei Radiohead è del 2000, anche quello album di passaggio. Forse è proprio l'anno 2000, che non è soltanto, allora evidentemente non è stato soltanto un numero, perché molte cose poi sono cambiate. E perché in questo album, in White Pony, ci si rende conto di più del cambiamento che sta avvenendo nei Deftones, perché ci sono brani che si avvicinano di più al trip pop oppure alla new wave, mentre prima erano una band new metal sostanzialmente i Deftones. Questo forse anche White Pony anche vede l'influenza di un che è rappresentata da un periodo di passaggio di Chino Moreno nei Team Sleep, l'album, cioè il gruppo che stiamo ascoltando, che è colonna sonora di questa puntata così tranquilla, rilassata e calda, spero. Andiamo ad ascoltare invece un altro brano tratto da un album precedente, da Around the Fury, sempre però versione acustica. Loro sono i Deftones, questo è Digital Beth, e voi siete sempre in ascolto di Radio Noise. Thank you. Deftones, Digital Bath. Prima ho detto che era tratto da Oran de Fiore, ma in realtà mi sono confuso. Anche questo brano è tratto da White Pony. E effettivamente anche in questo brano si sente, non tanto la versione acustica ma la versione originale, si sente di più l'influenza, anche qui un po' più trip hop, un po' più elettronica. E Delgado si può sbizzarrire ancora di più nelle sue composizioni. Sono passata quasi un'ora dalla prima ora, quindi sta per andare via. E a questo punto io ricordo un paio di contatti, come faccio in ogni puntata. Quindi radionoise@hotmail.it per aggiungere il contatto MSN, e radionoise010@010 scritto in cifre, @gmail.com invece per mandare le email. Questo delle mail ve lo dico perché, come ho detto qualche puntata fa, Radio Noise si interessa anche dei gruppi italiani, come avete potuto notare nella scorsa puntata, nella puntata con le cose perse. Si occupa anche dei gruppi underground italiani, i cosiddetti gruppi emergenti, che non hanno spazio, che non riescono a farsi vedere, e nel suo piccolo Radio Noise cerca di contribuire, ecco, a farli emergere. E allora, se siete interessati, mandate, se avete un gruppo, se conoscete un gruppo che potrebbe essere interessato, allora mandate una mail a radionoise010@gmail.com con due brani e una breve bio del gruppo, e quando avremo quindi materiale sufficiente inizieremo anche delle sottopuntate sempre all'interno di Radio Noise dedicate ai gruppi italiani, Italians Do It Better, perché molti, ma molti gruppi italiani fanno, come si dice, fanno le scarpe a un sacco di gruppi d'oltreoceano. Ascoltiamo un altro brano dei Deftones. Invece questo brano non è più tratto da White Pony, ma è tratto da un disco precedente, Be Quiet and Drive. C'è anche una versione live in cui canta il cantante degli Incubus, Brian Boyd, che poi, se non sbaglio, è la colonna sonora di un film. Ora non mi viene in mente, andrò a cercare e vi farò sapere immediatamente. Loro sono i Deftones, questo è Be Quiet and Drive. Questo era Deftones, erano sempre i Deftones con Be Quiet and Drive. E dicevo prima, parlavo del film. In realtà non è la colonna sonora, ma in questo live canta anche Adam Sandler. E passano in sottofondo in questo video, insomma. Vengono unite anche degli spezzoni del film che si chiama Little Nick, un diavolo a Manhattan, un film del 2000 che io consiglio di vedere perché è molto molto molto molto carino. Abbiamo parlato dei Deftones, abbiamo parlato degli Incubus, abbiamo parlato dei Deftones come gruppo importante per la scena new metal, gruppo che ha segnato un grosso passaggio, influenzati anche molto nei primi due dischi dai Pantera, dagli Helmet, tant'è che c'è un disco, un album Beside and Rarities in cui ci sono diverse cover e tra queste c'è anche una cover degli Helmet eseguita appunto dai Deftones, la cover è Sinatra. Vi consiglio anche di andare a recuperare questo Beside and Rarities che è molto molto bello. C'è un altro brano in chiave un poco reggae, diciamo, che Ordinary Love, ecco un'altra cover. Quindi consiglio di andare a recuperare questo disco. Siamo quasi quasi alla prima ora. Io spero, Radio Noise spera di essere riuscito, di riuscire ancora nell'intento prefissatosi, cioè quello di farvi rilassare questa sera, di spegnere il cervello e accendere lo stomaco, quindi far scivolare via tutti quanti i pensieri della giornata. Se questo esperimento è riuscito, lo riproporremo molto molto volentieri, che anche questa è una caratteristica di Radio Noise. Parlando appunto di gruppi new metal, abbiamo nominato gli Incubus perché in un'altra versione appunto live, la trovate su YouTube, di Be Quiet and Drive, c'è anche Brandon Boyd, cantante degli Incubus, che canta. E noi ci andiamo ad ascoltare un brano tratto da un disco, anche questo di passaggio, perché anche gli Incubus hanno cambiato, direi radicalmente, il loro approccio alla composizione. Questo poi determinato anche da alcuni cambi della lineup, però ne parleremo dopo. Andiamo ad ascoltare Southern Girl, loro sono gli Incubus, voi siete sempre in ascolto di Radio Noise. To the rule, you're a bona fide. Incubus con Southern Girl, tratto da Crawl Left of the Murder. E anche gli Incubus, come i Deftones, come i Radiohead che abbiamo ascoltato prima, cambiano, hanno un momento di passaggio. Loro in realtà hanno un periodo in cui cambiano quasi radicalmente il loro modo di approcciarsi alla musica, però sono un paio di gruppi, un paio di album che in realtà fanno cilec. Non sono così pieni e carichi e belli, termine più adatto da dire, che riesce a far capire. Non sono così belli come i primi due, come Fungus Among Us e come soprattutto Science, che è un capolavoro di elettronica, funky, rap, hip hop, jazz, soul e tutto quello che volete. Là veramente in quell'album gli Incubus sono veramente veramente grandi. Se non l'avete mai ascoltati, se non avete mai ascoltato Science, se siete stati abituati agli Incubus, ad ascoltare gli Incubus dal 2000 in poi, perché c'è da dire anche che dopo il 2000, soprattutto in Italia, non tanto negli Stati Uniti, sono diventati molto molto molto famosi con i nuovi album, con da neanche troppo da Make Yourself, ma da Morning View, poi A Crawl Left of the Murder è l'album che esplode qui in Italia. Invece loro sono conosciuti sin dagli albori della nascita, sin dagli albori del new metal. Sono considerati uno dei gruppi, se non il gruppo antesignano del filone new metal. Quindi hanno viaggiato appunto insieme ai Deftones, un tour insieme ai Deftones e ai Taproot. Hanno suonato all'Ozfest, hanno viaggiato insieme al Family Values Tour, che era un tour organizzato dai Korn, insieme ai Limp Bizkit, insieme ai Rammstein, insieme agli Orgy, insieme a Ice Cube. Quindi hanno partecipato a festival di non poco conto, insomma hanno suonato insieme a gruppi decisamente decisamente importanti e famosi. E il passaggio all'Ozfest, a Reading, ecco, non mi veniva il nome, insieme a System of Down, e beh, insomma, grandi gruppi. E stavo dicendo prima che c'è questo passaggio che a mio avviso è anche il passaggio è anche una conseguenza del cambio di line up, perché cambiano il bassista e soprattutto il DJ Life, che ha collaborato insieme agli Incubus fino al 1999. Non ricordo se nell'album Make Yourself ha partecipato, ma mi sembra di no. E quindi infatti Make Yourself, sì, no, effettivamente non ha partecipato alla stesura del disco di Make Yourself. Infatti Make Yourself è il disco, diciamo, più moscio, al di là del genere che si esprime all'interno del disco, però è il più moscio sia rispetto a quello che facevano prima, sia rispetto a quello che fanno dopo. Noi abbiamo ascoltato Southern Girl, ma tutto il disco Crawl Left of the Murder è un album abbastanza carico, molto carico in realtà. Quindi non è poi così tutto così pacato, ma utilizzando sonorità e suoni diversi. Tra l'altro io vedo un bellissimo live su MTV, però non mi ricordo assolutamente come aiutarvi a cercarlo. È un disco ed è un live che è in seguito all'uscita di A Crawl Left of the Murder. Infatti ci sono una serie di brani di quell'album. Abbiamo parlato di Southern Girl, quindi adesso invece andiamo ad ascoltare una donna che di Southern ha ben poco, almeno per quanto riguarda la provenienza, che però ha partecipato ha preso parte a gruppi importanti, a far parte di gruppi importanti, di un gruppo importante, ma poi ha collaborato con grandi personaggi, con grandi musicisti che hanno suonato anche nel suo disco. E lei è Melissa Hofdermauer, questa è Follow the Waves. Yeah. shuffle his deck clean. Melissa of Der Mauro con Follow the Waves. Dicevo prima di Southern Girl ha ben poco, perché è di Montreal, però ha preso parte, è entrata a far parte di gruppi importanti, di un gruppo importante, soprattutto sono gli Smashing Pumpkins di Billy Corgan, grazie a una conoscenza che aveva fatto nel 1993 di Billy Corgan. E poi entrò a far parte come bassista del gruppo delle Hollow, sostituendo Christian Pfaff, e non so come si, non ho mai capito come si pronunciasse. E dicevo, anche Melissa of Der Mauer ha avuto illustri personaggi all'interno del suo disco, come Nick Olivieri dei Queens of the Stone Age, Mark Lanegan dei Screaming Trees, Twiggy Ramirez, e anche debuttò insomma alla partecipazione musicale di James Sia, stesso chitarrista degli Smashing Pumpkins e poi degli Perfect Circle, gruppo parallelo di Maynard James Keenan, cantante di Tool, e poi è diventato gruppo principale in realtà. Niente da dire, ottima voce, grande personalità, ottima musicista, giusto. È passata, siamo un'ora e un quarto, quindi piano piano ci stiamo avvicinando verso la fine di questa settima puntata di Radio Noise, puntata, come ho detto prima, sperimentale e di sperimentazione, perché sempre esperimenti si fanno qui a Radio Noise. Abbiamo parlato di un dei Queens of the Stone Age, e nei Queens of the Stone Age ha militato anche se ha fatto un piccolo cameo, Dave Grohl, batterista dei Nirvana. Ma Dave Grohl non è stato soltanto un batterista, anzi adesso è un ottimo cantante, un ottimo chitarrista, sempre stato comunque un ottimo musicista. E ascoltiamo quindi il suo gruppo principale, il gruppo che ha adesso, che sono i Foo Fighters. Questo è uno dei brani più belli dei Foo Fighters, l'album è The Color and the Shape, il brano è uno dei più belli di The Color and the Shape, premettendo anche che The Color and the Shape è uno degli album più belli dei Foo Fighters, un album veramente completo, un album con grandi atmosfere, anche una canzone bellissima, anzi magari dopo ce l'ascoltiamo se riusciamo, anche una canzone bellissima che si chiama See You, una canzoncina, ecco, la cosiddetta canzoncina che però ti resta in testa e ti piace, insomma. Loro sono i Foo Fighters e questa è Everlong. Foo Fighters Everlong, tratto da The Color and the Shape. E come dicevo prima, quindi qui Dave Grohl fa capire che non è stato soltanto un batterista dei Nirvana, ma è un ottimo musicista, un ottimo compositore. Parlando di Melissa Auf der Maur, parlando quindi degli Smashing Pumpkins, siamo riusciti ad unire, a fare un po' una sorta di collegamento, come tutto torna. Melissa Auf der Maur, Queens of the Stone Age, Dave Grohl, ma Melissa Auf der Maur è anche Smashing Pumpkins. Questi sono i giri che Radio Noise fa, giri abbastanza semplici, fondamentalmente. Quindi abbiamo parlato degli Smashing Pumpkins e andiamo ad ascoltare un brano degli Smashing Pumpkins. E stasera parole molto molto poche, poche parole e molta musica, perché le parole sono importanti, ma la musica è la regina di questo programma, e spesso le parole possono anche annoiare, quindi io preferisco sempre dare voce al suono. Voi direte adesso, e allora mandalo sto pezzo, allora lo mando questo pezzo. Con questo brano degli Smashing Pumpkins chiudiamo questo piccolo triangolo di questa piccola parentesi all'interno di questa serata così tranquilla, una piccola parentesi un po' più distorta, come avete potuto notare, con Melissa Auf der Maur, Foo Fighters e adesso gli Smashing Pumpkins. Brano estratto da uno degli album più belli della musica rock, gli album più belli degli anni 90, una suite, un doppio album completo, 20 brani a disco, mica poco. Smashing Pumpkins, Bullet with Butterfly Wings. Trade desires and that peace out. spite of my rage, I am still just a rat in a Smashing Pumpkins, Ballet with Butterfly Wings, tratto da Melancholy and the Infinite Sadness. E, come dicevo prima, album, una suite, un album veramente incredibile e magico, e veramente si vede quanto sia incredibile dal punto di vista compositivo Billy Corgan. A tal proposito voglio dire che per chi non lo sapesse, se c'è qualcuno che ancora non l'ha scoperto, ma ne dubito, Billy Corgan non è mai stato il fratello di Super Vicky. Telefilm Super Vicky, ve lo ricordate? O voi giovani, o voi giovani vecchi. È stato un periodo in cui appunto si diceva che Billy Corgan fosse, almeno qui in Italia, almeno nelle nostre zone, si diceva che Billy Corgan fosse, no, in realtà era uscita in Italia questa leggenda, si diceva che Billy Corgan avesse interpretato il fratello di Super Vicky nel telefilm, appunto Super Vicky. Però in realtà non era così, sia per la giovane età che aveva all'epoca Billy Corgan, all'epoca dell'uscita del telefilm. Questa leggenda è stata creata nel momento in cui Super Vicky qui in Italia aveva un grande seguito, c'erano moltissimi ascolti, e allo stesso tempo gli Smashing Pumpkins stavano avendo un certo successo. Qualcuno ha notato una certa somiglianza che ci poteva essere tra Billy Corgan e il bambino di Super Vicky, e allora ha tirato fuori questa leggenda, però in realtà non è assolutamente vero. Non è mai stato così. Degli Smashing Pumpkins avremo modo di parlare in una puntata dedicata soltanto agli Smashing Pumpkins. Sarà ospite uno, colui che ama e conosce ed è profondo conoscitore degli Smashing Pumpkins. Quindi altro non dico, se non che chiudiamo, prima di passare all'ultima mezz'ora e rientrare negli ambiti un po' più caldi che hanno rappresentato questa puntata di Radio Noise, ci ascoltiamo un brano leggero. Faith No More, Easy. I'm easy. E con i Faith No More siamo arrivati all'ultima mezz'ora di questa settima puntata di Radio Noiz, e quindi ci ributtiamo nella fase, diciamo, calante in certo senso. Ripartiamo, riprendiamo da dove eravamo partiti, quindi ci rimergiamo nei suoni un po' più dolci e un po' più delicati. Facciamo come il brano Idiotech, circolare. E passo subito al pezzo, perché ci sono due o tre pezzi che voglio far ascoltare, ma il tempo stringe. Quindi ci ascoltiamo un altro brano degli Smashing Pumpkins. È stato consigliato da colui che prenderà parte appunto alla puntata dedicata agli Smashing Pumpkins, quando non si sa. Siete sempre in ascolto di Radio Noiz. Radio Noiz è @hotmail.it per raggiungere il contatto MSN. Radio Noiz è 010@gmail.com. Radio Noiz all'interno del contenitore Transizione di Fase, che ospita anche altri programmi oltre alla musica in random 24 ore su 24. www.transizionedifase.org. Loro sono gli Smashing Pumpkins e questa è Ugly. Smashing Pumpkins con Ugly. E ci siamo giunti quasi alla fine. Io ringrazio, inizio sempre a fare i saluti mezz'ora prima, però mi preme sempre ringraziare chi è in ascolto, perché grazie anche agli ascoltatori che Radio Noiz trova la propria forza, come tutti quanti i programmi di questa radio, come tutta Transizione di Fase. Ascolteremo tre brani di un gruppo importantissimo della scena grunge, gli Alice in Chains. Questi tre brani fanno parte di uno stesso album, Jar of Flies, che è un album diverso, che si discosta un po' dal genere che proponeva, che ha proposto negli altri dischi che hanno proposto gli Alice in Chains, il genere proposto agli Alice in Chains. E un disco appunto diverso, sonorità più calde rispetto a quelle molto più heavy cui si accostavano gli Alice in Chains. Qui si vede anche la grande capacità compositiva di Jerry Cantrill, che poi è il chitarrista e che è colui che ha composto la maggior parte dei brani, e della loro capacità di riuscire a mischiare una voce così potente come quella di Lynne Staley, creando sonorità cupe che sono sempre stata una prerogativa degli Alice in Chains. Ma in Jar of Flies, piccolo EP, Jar of Flies rappresenta ancora di più queste sonorità molto cupe. Io consiglio di ascoltare tutto il disco, ascoltare la discografia degli Alice in Chains, che abbiamo già ascoltato nella puntata, nel primo capitolo dedicato al grunge. Consiglio vivamente, nient'altro da dire. Sono le 22 quasi 40 minuti e 38, io faccio le 22:38. Iniziamo quindi con il primo brano, Alice in Chains, Rotten Apple. Thank you. Alice in Chains, questa era Rotten Apple, tratta da appunto Jar of Flies. Brano molto molto bello a mio avviso, anche con il wah-wah che è il talk box, che è uno strumento che viene utilizzato molto da Slash dei Guns N' Roses. È sostanzialmente un tubo in cui ci si canta dentro e si dà in un certo senso la voce alle note che vanno ad essere suonate. Si utilizza molto appunto negli assoli soprattutto, ed ha questa modulazione appunto del suono. Sembra le note, quindi sembra che stiano appunto parlando in un certo senso, perché effettivamente è chi utilizza il talk box che ci parla dentro. Spero di essere stato in qualche modo comprensivo e comprensibile. Io spero che questa serata sia servita a qualcosa, sia piaciuta innanzitutto. Se non vi è piaciuta, scrivetelo. Se vi è piaciuta, scrivetelo uguale. È stato tentato questo esperimento. Per quanto mi riguarda, sono riuscito a raggiungere l'obiettivo prefissato. Che io mi pongo anche come ascoltatore nel momento in cui faccio il programma. Non sono soltanto un piccolo speaker o una piccola voce che parla. E a me ha fatto l'effetto che desideravo venisse fuori, insomma si verificasse. Adesso ci andiamo ad ascoltare invece due brani, uno dopo l'altro, in silenzio, quindi stacco il microfono per una decina di minuti, per poi lasciarvi agli ultimi saluti e quindi lasciarvi poi con l'ultimo brano di questa serata. Sono sempre gli Alice in Chains, sempre tratto da Jar of Flies, sempre su Radio Noise, sempre in onda su Transizione di Fase. Thank you. Alice in Chains. Abbiamo ascoltato due brani, come ho detto prima, While in Wasp e I Stay Away, sempre da Jar of Flies. Siamo giunti quindi alla fine di questa settima puntata di Radio Noise. E ripeto, spero di essere riuscito in questo intento. Settimana prossima non si sa ancora cosa ci riserverà la prossima puntata di Radio Noise. Sicuramente, probabilmente rialzeremo un po' i volumi, oppure rimarremo su questa scia, questo è ancora da decidere. Prima di salutarvi, vi ringrazio di essere stati in ascolto, questa volta per l'ultima volta, e vi do appuntamento settimana prossima con una nuova puntata di Radio Noise. Io vi do la buonanotte per quanto riguarda Radio Noise, ma dopo ci sarà Out of the Shell, Delirio Indipendente di Intervento Sociale. Quindi vi do una buon proseguimento di serate. Finalmente sono riuscito a dirlo, sempre stato un mio sogno dirlo. Buon proseguimento di serata con i programmi di Rai 2. Vabbè, è stato troppo serio, quindi almeno una minchiata la dovevo dire, perché altrimenti non c'è gusto. Buonanotte a tutti, grazie di essere stati in ascolto. Vi lascio con i Pearl Jam, con Release, e poi la sigla. Buonanotte, grazie ancora.